Allora, presento Padre Agostino, che è professore qui al seminario, molti di voi lo conoscono, e ci parlerà del discorso che il Santo Padre Giovanni Paolo II ha fatto a 80.000 giovani musulmani a Marocco dietro l'invito di Sua Maestà il Re. E questa è stata una cosa, diciamo, veramente eccezionale nella storia stessa della Chiesa e credo che anche nella storia del mondo musulmano. Padre Agostino, la parola a lei. Il mio intervento sarà molto soft, data anche l'ora in cui iniziamo questo pomeriggio. E oltretutto, questo vuole essere una giustificazione previa anche perché non vi aspettiate più di tanto. Un'analisi dei diversi interventi pubblici e privati di Giovanni Paolo II in merito all'islamismo rivela che pur non essendo numerosissimi, un centinaio tra quelli che ha rivolto all'Islam e quelli sull'Islam, sono pur tuttavia considerevoli per numero e importanza negli oltre 10 anni del suo pontificato. Questo è indice della sua particolare attenzione per l'Islam, maturata durante la celebrazione del Concilio Vaticano II e intensificata nei suoi sempre più frequenti contatti con la gente in tutto il mondo, durante i suoi viaggi apostolici e negli incontri con esponenti del mondo politico e culturale. Sarebbe difficile, nel breve spazio di questa comunicazione, fare una approfondita analisi dei diversi interventi di Giovanni Paolo II in cui si rivolge all'islamismo o in cui parla dell'islamismo. La limitazione al discorso di Casablanca, fatto il 19 agosto 1985, credo che abbia una sua plausibilità, sia per l'importanza che il Papa stesso, la Chiesa e il mondo musulmano hanno riservato al discorso di Casablanca, tenuto, diceva prima, davanti a 80-90 mila giovani musulmani, proprio perché era forse, credo, la prima volta in cui un Papa veniva invitato esplicitamente a parlare a dei musulmani in terra di antica data musulmana. Per il testo e il commento mi rifaccio alla rivista Seminarium, il primo numero dell'86, e vorrei qui accennare al fatto che la pubblicazione di un numero intero su questo argomento indica come la Chiesa sia particolarmente attenta a che nella formazione dei sacerdoti si parli in modo corretto dell'Islam, ciò che non avveniva forse in tempi non molto lontani. E mi servirò in buona parte anche del commento di padre Bormans. Il discorso di Giovanni Paolo II ai giovani musulmani del Marocco rivela ad un'accurata analisi un'insospettabile ricchezza di contenuti e presenta caratteristiche sorprendenti. A distanza di quasi 4 anni, esso è davanti ai nostri occhi e oggi interpella le nostre menti per una interpretazione in cui che può e deve andare al di là della contingenza storica in cui è stato preparato e pronunciato. Il discorso di Casablanca ha avuto una certa risonanza nel mondo cattolico proprio perché si era avvertito fin dal primo giorno il significato che esso racchiudeva al di là di ogni risultato. Rinfrescarne oggi la memoria, proprio in questo nostro incontro, vuol dire di dialogo tra il cristianesimo e l'islamismo, vuol dire dare un grande significato al dialogo stesso fra le due grandi comunità. E alla luce, è alla luce della preghiera per la pace che fu tenuta da Assisi, dove le regioni del mondo hanno... Scusate se ho interrotto un momento, perché abbiamo la visita del vescovo di Bolzano Bressanone, Monsignor Ecker, che ci esprime la sua adesione apprezzatissima in questa occasione e di cui vivamente lo ringraziamo. Però ho già accennato al fatto che Monsignor Ecker è membro del comitato scientifico dell'Istituto di Scienze Religiose fino dalla sua fondazione, vero, quando soltanto l'Eterna Sapienza sapeva che cosa sarebbe diventato di lui. Dopo questo inizio, vero, che lo ha messo tra i padri fondatori del nostro istituto, certamente noi, una volta che lui è stato elevato a questa carica altissima, siamo stati più che lieti di avere la conferma della sua accettazione a continuare a far parte del nostro istituto, vero, benché secolare, come ho già detto, benché di impianto civile. Tuttavia, ecco, noi abbiamo questa gloria e questa utilità, vero, della partecipazione di un vescovo, e di un vescovo erudito, di un vescovo biblista, di un vescovo insegnante nelle scuole superiori di teologia e insieme molto impegnato anche nei problemi dell'intesa, dell'avvicinamento tra le comunità etniche così diverse. Ecco, approfitto proprio dell'occasione per ringraziarlo della sua presenza. Se consentite, con l'occasione esprimo anche l'adesione dell'Arcivescovo di Trento, che certamente sarebbe intervenuto almeno ad ascoltare una qualche parte delle nostre relazioni, se non che è assente in questi giorni per un viaggio apostolico in Bolivia e mi ha espresso, ancora appena visto il programma, la sua ammirazione, la sua adesione, vero, così che spiritualmente sono in dovere di ricordarlo. Grazie. Allora riprendo. Sono ben onorato, anzi. Dunque, alla luce della preghiera per la pace di Assisi, dove gran parte delle regioni del mondo erano rappresentate, appare ancora più chiaro il disegno dell'attuale Papa per un confronto ecumenico tra le varie religioni. Esse sono chiamate tutte a mettersi al servizio dell'umanità contemporanea, cercando risposte agli interrogativi più angosciosi per il futuro della storia. Una prima parte vuole esaminare le caratteristiche del discorso. Leggendo con attenzione il discorso di Giovanni Paolo II a Casablanca, ci si rende subito conto che è stato studiato fin nei minimi dettagli, tanto nella forma che nel contenuto. Prima di esaminare i diversi temi, può essere quindi utile cogliere alcune caratteristiche che diventano esse stesse un implicito messaggio. Il Papa sapeva che non si trattava di un incontro qualsiasi. Le sue parole sarebbero state pesate dal mondo islamico e avrebbero avuto anche un'inevitabile risonanza nel mondo cristiano, quello cattolico in particolare. Tutto l'intervento, molto calibrato anche nel dosaggio delle varie parti, si svolge alla luce di Dio, nominato ben 65 volte, mentre una sola volta, e credo per rispetto proprio anche verso il mondo islamico, ed è nella citazione di un passo del Concilio Vaticano II, usa il termine padre. Giovanni Paolo II era stato invitato a parlare ai giovani come educatore della fede, e tale egli volle essere a Casablanca. Dio è al primo posto nel suo discorso e l'afflato complessivo che lo anima è impregnato del senso di Dio. L'altro aspetto, caro al Papa, e quasi un marchio di riconoscimento di una sua mano nella stesura, è la presenza di un umanesimo teocentrico che caratterizza anche l'antropologia coranica, se non vado errato. La gloria di Dio è l'uomo vivente, di quest'uomo e a quest'uomo egli vuol parlare. I suoi riferimenti sono da leggere in filigrana. Egli non nomina mai esplicitamente la Bibbia nel suo discorso. Penso di nuovo per cortesia verso i suoi interlocutori, ma dimostra anche di sapere che alla tradizione biblica si riferisce frequentemente lo stesso Corano. Se la teologia cattolica ha ultimamente evidenziato una certa svolta antropologica anche nella formazione catechistica, parlando a musulmani, il Papa preferisce la strada che parte dal mistero di Dio per approdare al mistero dell'uomo. Dio, con tutti i suoi nomi, i suoi attributi, è un Dio per l'uomo. L'uomo, con tutta la sua fragilità, è una creatura per Dio. Giovanni Paolo II usa molte volte il pronome noi per accomunare cristiani e musulmani in tutto ciò che li unisce, anche negli aspetti comuni della fede monoteistica e del destino finale dell'uomo. Pure questa scelta grammaticale non è certamente casuale, ma dice molto di più di quanto non appaia ad una lettura frettolosa e superficiale. E sempre in questa scelta di fede che caratterizza la sua presenza e le sue parole, Giovanni Paolo II vuole che l'incontro avvenga in un clima di preghiera. La sua meditazione ha l'andamento di una lettera paolina. Inizia ringraziando il Signore, rendendo grazie a Dio, e comincia così, e poi termina con una bellissima invocazione, sempre a Dio. Il tono, l'andamento, il contenuto del discorso è misurato sulla condizione dei suoi giovani interlocutori. Il Papa è molto attento a non urtarli, colorando in maniera eccessivamente cristiana le sue parole, come poteva esserci la tentazione, ma è altrettanto deciso nel portare il suo intervento su un piano di esistenza pratica a favore dell'uomo, immagine di Dio. Su questo piano egli dimostra un'attenzione costante ai valori dell'Islam, non per cortesia di ospite, ma per una scelta precisa nella ricerca dei valori che sono patrimonio comune, di quelli che si iscrivono in un pluralismo religioso e tenta una ridefinizione della propria identità cristiana. Si nota nel discorso il desiderio di cogliere quel patrimonio comune sul quale cristianesimo e islamismo possono incontrarsi e collaborare. Sul piano religioso abbiamo la comune fede monoteista, che è appunto uno di questi aspetti, anche se non vanno taciute grandi differenze proprio sul piano dogmatico, come per esempio la fede nella Trinità e nella morte e risurrezione di Cristo. Su un piano di visione umanistica del mondo e del compito che l'uomo ha nella storia, un terreno sul quale la convergenza è sicuramente più facile, i punti di contatto si moltiplicano. Nel Vangelo, come nella tradizione coranica, si afferma che l'uomo sarà giudicato sull'amore in base alle sue opere. Tutto quello che accade non è estraneo al disegno di Dio. Sotto il suo sguardo avviene ogni incontro tra gli uomini, come l'incontro che metteva in quel momento il Vescovo di Roma a contatto col mondo musulmano. Ed è un Dio che si chiama il Misericordioso, colui che invita con pazienza alla riconciliazione, al perdono, alla comprensione, al dialogo. Parlando in maniera così ufficiale, per la prima volta nella storia, a una folla di musulmani, su invito del re del Marocco, il Papa sapeva di non potersi porre come un uno che approfitta dell'occasione per fare proselitismo. Sarebbe stato oltretutto anche di cattivo gusto. Già con l'accettare l'invito, egli afferma anche di voler accogliere un pluralismo che deve valere da ambo le parti, nella ferma convinzione che ciascuno ha qualcosa da ricevere dagli altri e qualcosa da dare. E il pluralismo, una volta accolto su un piano etnico, politico, culturale, non può non riguardare anche il fatto religioso che coinvolge l'uomo. Tale pluralismo ha un nome che si iscrive nei diritti fondamentali dell'uomo, la libertà religiosa, che deve valere per tutti gli uomini e ovunque. Questo implica che si rinuncia ai facili pregiudizi, ai vari integralismi di varia matrice ed espressione che sono fonte perenne di conflitto. Presentarsi agli altri comporta anche dichiarare esplicitamente la propria identità, senza infingimenti che falsano i rapporti. È nell'accettazione del pluralismo che la propria identità si offre, senza preclusioni preconcette, ma anche senza nascondere differenze talvolta vistose. Il Papa è ben conscio, lo afferma esplicitamente, che un punto fondamentale per i cristiani, ma al contempo molto problematico per i musulmani, è la figura di Gesù di Nazaret, usa proprio questa espressione, invece che dire Cristo. L'intervento di Giovanni Paolo II a Casablanca manifesta una continuità con l'insegnamento di Paolo VI sulle orme del Concilio Vaticano II, in particolare della dichiarazione Nostra Aetate sulle religioni non cristiane e della dichiarazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa, che sappiamo che hanno avuto anche un iter travagliato al Concilio. Egli deve aver valutato con molta attenzione il significato che sarebbe stato dato al suo gesto nel mondo cattolico, ma un rischio non minore, quindi una valutazione altrettanto attenta, deve aver fatto il re del Marocco a San Secondo nel rivolgere il suo invito al Papa a parlare ai giovani del suo paese, a stragrande maggioranza musulmana. I rischi erano politici e religiosi per ambedue, ma il pretesto poteva essere buono. cioè un capo di Stato di un paese a prevalente fede islamica e lo stesso musulmano, invitava il Papa a parlare ai giovani del suo paese in quanto educatore nell'anno della gioventù. Così il discorso di Casablanca resta tutt'oggi un esempio di dialogo tra il mondo cristiano e quello islamico. La seconda parte, le tematiche sviluppate nel discorso. Vado per sommità. In questa seconda parte del mio intervento vorrei fare una semplice schematica esposizione offrendo un'introduzione alla lettura attenta del testo stesso. Esso si presenta costruito con molta cura ed è esemplare anche per la semplicità con cui è presentato nell'edizione finale, che deve essere stata molto laboriosa, limata. Tutto l'impianto è essenziale e molto preciso. Un'introduzione che presenta le motivazioni, il clima, lo schema del discorso, un corpo centrale in cui il Papa sviluppa in due punti il suo intervento e la conclusione in forma di preghiera. È come credente che io vengo oggi a voi. Vorrei darvi semplicemente la testimonianza di ciò in cui credo, di quanto desidero per la felicità degli uomini miei fratelli e di quello che per esperienza ritengo utile per tutti. Così esordì. Fa questa affermazione dopo aver dichiarato la propria identità secondo la dottrina cristiana, cioè successore di Pietro, a cui Gesù ha affidato il compito di confermare i fratelli nella fede, e vescovo di Roma, chiamato a testimoniare la fede e a garantire l'unità della Chiesa. Ed è come credente e come uomo preoccupato della sorte dell'umanità che egli parla a giovani credenti pensierosi di fronte al futuro dell'uomo. La tematica dottrinale che il Papa sviluppa in alcuni passi e tiene presente in tutto il suo discorso si incentra su Dio, sulla sua natura, sul suo rapporto con l'uomo, sulla responsabile risposta che l'uomo è chiamato a dargli in piena libertà, in atteggiamento di amore e di adorazione. Dio è origine, creatore e salvatore dell'uomo. Egli domanda all'uomo che ascolti la sua parola e attende la sua obbediente risposta fatta di libera e amorosa adesione. Ed è alla luce di questa comune fede in Dio che la Chiesa si sforza di favorire l'amicizia e l'unità fra gli uomini che hanno la stessa origine e il medesimo destino. È nel suo servizio a tutto l'uomo e a tutti gli uomini che la Chiesa cerca la collaborazione fra i credenti a partire da un vero esercizio di tolleranza, che cito le sue parole, per promuovere per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace, la libertà. Questa era la prima tematica, quella su Dio. La seconda grande tematica è un invito pressante a passare dal credere all'agire, tirando tutte le conseguenze per la storia dalla fede che si fa missione e testimonianza. La premessa ad ogni agire è ancora una volta la fede in Dio, dice il Papa. Il dialogo fra cristiani e musulmani è oggi più necessario che mai. Esso deriva dalla nostra fedeltà verso Dio e suppone che noi sappiamo riconoscere Dio con la fede e testimoniarlo con la parola e con l'azione, in un mondo sempre più secolarizzato e talvolta perfino ateo. Sono essenzialmente due gli ambiti in cui cristiani e musulmani, come tutti gli uomini di buona volontà, sono chiamati a dare la loro testimonianza. Quello che riguarda Dio e il suo posto nella storia dell'uomo. Il secondo, quello che riguarda la dignità umana, che si realizza nel raggiungimento dei valori materiali, culturali e spirituali inscindibilmente. La fede in Dio si testimonia di fronte al mondo con il culto verso di Lui e la ricerca della sua volontà nelle scelte quotidiane, sapendo che le sue vie non sono spesso le nostre vie. Condizione affinché ciò si verifichi è un'autentica libertà e rispetto per gli altri, unita ad una leale ricerca della verità. Non è difficile, penso, scorgere in questa osservazione del Papa una messa in guardia contro i rischi che di ogni tipo di integralismo religioso e può annidarsi in ogni religione. Nella prima parte del suo discorso Giovanni Paolo II esprime idee teologiche, come ho detto, mentre nella seconda sviluppa alcuni spunti di una antropologia teologica. Il punto di partenza per ogni discorso sull'uomo, per ogni intervento a suo favore, a favore dell'uomo, è ancora Dio. E cito: dobbiamo rispettare, amare, aiutare ogni essere umano perché è una creatura di Dio e in certo senso sua immagine e rappresentante. Perché egli è la via che porta a Dio e perché non può realizzarsi pienamente che conoscendo Dio, accettandolo con tutto il cuore e obbedendoli fino al raggiungimento della perfezione. Ecco in poche parole la sintesi di un'antropologia teologica che in certa parte, credo, è comune a cristiani e musulmani. Tradito Dio, è tradito anche l'uomo. Non riconoscendo i diritti di Dio, si mettono a repentaglio anche i diritti dell'uomo, quale Dio lo ha creato. Il rispetto dei diritti dell'uomo e il dialogo sincero richiedono una reciprocità nel riconoscere le fondamentali libertà e quella religiosa soprattutto. Essi, questi diritti, favoriscono la pace e la concordia fra i popoli ed aiutano a risolvere insieme i grandi problemi che travagliano l'umanità. Il Papa a Casablanca si rivolgeva ai giovani. Con essi ha sempre dimostrato di trovarsi pienamente a suo agio. Qui, come in ogni suo incontro con i giovani, egli torna ad indicare il compito di costruire la storia. È un impegno che sgorga da una profonda convinzione, e lo dice con queste parole. Normalmente i giovani guardano verso l'avvenire, aspirano a un mondo più giusto e più umano. Dio li ha fatti così, proprio perché possano contribuire a trasformare il mondo secondo il suo piano. Il mondo che gli uomini si trovano ad affrontare è un mondo pieno di ombre. In poche parole, il Papa prospetta concisamente la fotografia angosciante del mondo odierno che attende salvezza dai credenti. Ma di fronte a una tale situazione, Dio non vuole che gli uomini restino passivi. Come non leggere in questa espressione l'invito a superare ogni fatalismo di cui si accusa talvolta con superficialità l'islamismo? L'impegno concreto nella storia è indicato con parole incisive, dice il Papa ai giovani. Voi siete responsabili del mondo di domani. Solo assumendo con coraggio le vostre responsabilità potrete vincere le difficoltà attuali. Dovete dunque prendere iniziative senza attendervi tutto dagli adulti o dalle persone che hanno un ruolo nel mondo. Dovete costruire il mondo, non solo sognarlo. Passando a esaminare concretamente il modo, i campi di un fattivo intervento, il Papa indica anzitutto due modalità essenziali: lavorare insieme e collaborare con gli adulti. Inoltre dice va rispettata una realtà fondamentale, che cioè ogni uomo è unico al mondo agli occhi di Dio e va pertanto riconosciuto per quello che è, valorizzato, senza utilizzarlo, strumentalizzarlo, sfruttarlo, disprezzarlo. Di fronte a un mondo che manifesta continui sintomi di malessere, egli affida ai giovani la missione di salvare. Anche la spiegazione dei mali del mondo, divisioni, ingiustizie, mancanze di solidarietà e di aiuto reciproco, insufficiente rispetto delle diverse culture e razze, anche, dicevo, questa analisi è in linea con l'antropologia teologica che ispira tutto il suo discorso. I mali del mondo derivano dal fatto che gli uomini non riconoscono le loro differenze e non si conoscono abbastanza, mentre Dio li ha creati uguali in dignità, ma differenti quanto a doni e talenti, perché ognuno eserciti un suo ruolo specifico a bene di tutti. Il mondo è come un essere vivente, ciascuno ha qualcosa da ricevere dagli altri e qualcosa da dare loro. Per realizzare una civiltà fondata sull'amore, Occorrono giovani senza pregiudizi, senza frontiere, desiderosi di giustizia e pace per tutti e quindi contrari ad ogni guerra, violenza, corsa agli armamenti, sfruttamento delle persone. Passando quindi ad indicare i livelli di sviluppo dell'uomo e del mondo a cui i giovani sono chiamati a contribuire, il Papa indica la classica scala dei valori. Assicurare i valori materiali per aprire la strada a quelli culturali e per venire infine ai valori spirituali, ma tutti insieme vanno coltivati. Non era ancora stata pubblicata la Sollicitudo Rei Socialis quando Giovanni Paolo II parlava ai giovani musulmani, però in poche parole mi pare che ne dava già allora una sintesi molto interessante. Diceva così: Dio ha dato la terra a tutto il genere umano nel suo insieme affinché gli uomini ne ricavino la loro sussistenza nella solidarietà e perché ogni popolo abbia i mezzi per nutrirsi e pensare alla propria vita in pace. L'uomo ha anche bisogno di sviluppare il suo spirito, la sua coscienza, la ricerca della verità su di sé, sul mondo, su Dio, dà un orientamento essenziale allo sviluppo dell'uomo e lo apre ai valori definitivi della dimensione spirituale. L'uomo, essere religioso, è cercatore instancabile di Dio. Operare dunque per la crescita dei valori spirituali vuol dire perseguire il maggior bene dell'uomo. A questo punto, verso la fine del suo discorso, il Papa fa una digressione che credo non vada trascurata. Dice: proprio sui valori religiosi non c'è piena identità tra cristiani e musulmani, anzi in passato, a partire da ciò, ci sono state fra loro incomprensioni, opposizioni, polemiche e anche guerre, diciamolo. Vanno pertanto cercati valori religiosi che da ambo le parti sono riconosciuti: la preghiera, il digiuno, l'elemosina, la penitenza, il perdono. Questi valori vanno cercati rispettando le differenze e perciò egli augura ai giovani di poter contribuire a costruire un mondo in cui Dio abbia il primo posto per poter così aiutare e salvare gli uomini. E concludo. Come era iniziato, il discorso di Giovanni Paolo II si conclude con un ringraziamento a Dio, custode dell'uomo e testimone dello storico incontro. L'augurio è ancora una volta nella linea di una piena fiducia e sottomissione a Dio. Possiamo noi dimostrare la nostra disponibilità nei suoi confronti ed essere sottomessi alla sua volontà, agli appelli che ci rivolge. Questa è la condizione indispensabile per ogni progresso dell'umanità e di ogni persona nel mondo. Così l'uomo, gloria di Dio, opererà per la gloria di Dio e cercherà di costruire un mondo sulla misura del suo amore. E questa è anche l'ultima invocazione della preghiera con cui il Papa termina il suo discorso e che possiamo fare nostra. O Dio, autore della giustizia e della pace, donaci la vera gioia, l'amore autentico, una durevole fraternità fra i popoli. Ricolmaci sempre dei tuoi doni. Grazie a Don Valentini che ci ha richiamato al dovere che credo dovrebbe essere più sentito nell'ascoltare la parola del Papa che ci presenta proprio le condizioni e lo spirito con cui ogni cristiano e ogni musulmano dovrebbe portare per questo incontro. Questa realtà, possiamo dirla, la viviamo in questi giorni e come il Santo Padre ringraziava il Signore, ringraziamo il Signore per averci riuniti qui insieme in spirito di carità nella ricerca ciascuno della via di Dio.